Bentornati a tutti gli ascoltatori dei podcast di Rivista Militare. La rivista da cui è tratto l'articolo di oggi è sempre la numero 3 del 2021. L'autore dell'articolo è Elpidio Crispino. Il titolo: Una formazione internazionale, ovvero il personale estero alla scuola di applicazione. Ad inizio anno si è dato il via al piano delle ammissioni di personale straniero ai corsi presso enti e istituti delle Forze Armate italiane per il nuovo anno accademico 2021-2022 che sta per cominciare. Il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino, da cui dipende l'Accademia Militare di Modena, accoglierà come ogni anno gli allievi ufficiali e gli ufficiali frequentatori nazionali e stranieri. Il nuovo anno accademico vedrà coinvolti 82 frequentatori stranieri provenienti da 22 paesi su un totale di circa 1.400 allievi. Da diversi decenni, nell'ambito del quadro generale di politica estera del Paese, l'Italia valorizza le proprie strategie di collaborazione svolgendo anche attività di assistenza e cooperazione nel settore militare, in particolare nella cornice dei più ampi rapporti internazionali bilaterali e multilaterali tra le nazioni. Il comparto difesa italiana è fortemente orientato alla formazione, all'addestramento e alla specializzazione di personale appartenente alle forze armate di paesi alleati e amici. Non deve sorprendere, infatti, che la formazione in contesti multinazionali, spesso a connotazione joint tra diverse forze armate e combined tra diverse nazioni, proprio per la complessità degli attuali scenari, rappresenta un fattore strategico comune a tanti stati, europei e non. La Forza Armata ha da tempo iniziato un progetto per il mantenimento di un rapporto duraturo nel tempo con gli ufficiali stranieri che abbiano frequentato corsi di formazione in Italia. L'Accademia Militare e la Scuola di Applicazione dell'Esercito propongono al personale straniero un'offerta formativa ampia che si è rinnovata nel corso degli anni in relazione ai requisiti operativi. Si tratta di una formazione integrata, bilanciata tra conoscenza dottrinale, preparazione tecnico-professionale e addestramento ginnico-sportivo. L'utilizzo della lingua inglese negli insegnamenti, un approccio multidisciplinare per la risoluzione del problema militare, lo studio della storia militare e dei fatti d'arme più rilevanti delle vicende storiche passate sono solo alcuni degli aspetti caratterizzanti i corsi formativi. Nell'ultimo decennio, 379 allievi ufficiali appartenenti a 30 paesi sono stati ammessi ai corsi universitari e tecnico-professionali dell'Accademia Militare di Modena. Di questi, 179 ufficiali frequentatori provenienti da 24 paesi, dopo aver concluso con successo il biennio modenese, hanno proseguito i corsi universitari a Torino. Le collaborazioni con i paesi dell'area balcanica, Montenegro, Macedonia, Albania, del continente africano, Libia, Niger e Senegal per citarne alcuni, e dell'area asiatica, Afghanistan, Giordania e Thailandia, sono ben solide e durature. Più recenti invece risultano le adesioni da parte di numerosi frequentatori dell'Arabia Saudita per il conseguimento della laurea triennale e di alcuni dei paesi del Sud America. Da evidenziare un dato in evoluzione: le ammissioni non riguardano più solo le varie armi. Infatti, nell'ultimo decennio, diversi ufficiali della Giordania hanno partecipato ai corsi del Corpo degli Ingegneri, un ufficiale della Repubblica del Montenegro del Nord al corso dell'arma trasporti e materiali e un ufficiale della Somalia al corso del corpo di commissariato. Altri dati interessanti riguardano da un lato l'ammissione ai corsi di chirurgia e medicina di frequentatori provenienti da Afghanistan, Camerun, Giordania e Niger, dall'altro la partecipazione di personale dall'Afghanistan, Albania e dalla Somalia ai percorsi formativi dell'Accademia per l'Arma dei Carabinieri. Il programma di internazionalizzazione degli istituti di formazione, in particolare quello della scuola di applicazione, è oramai una realtà consolidata. L'utilizzo della lingua inglese, lo studio di una seconda lingua francese e o arabo, la partecipazione dei frequentatori al Common Security and Defense Policy e Law of Armed Conflicts dell'Erasmus militare, la possibilità per alcuni di un tirocinio pratico all'estero, lo scambio di selezionati docenti e studenti tra i diversi istituti militari e universitari sono elementi che si sposano perfettamente con la partecipazione degli ufficiali stranieri ai corsi di formazione in Italia. La formazione avanzata ha visto dal 2012 ammettere al corso di Stato Maggiore dell'Esercito 42 ufficiali provenienti da 15 paesi. Nell'ottica di una formazione interforze aperta anche a paesi non NATO, nelle ultime edizioni hanno partecipato 2 ufficiali della Marina della Repubblica Popolare Cinese, edizione 2017, e un ufficiale della Forza Aerea del Brasile, edizione 2019. Corsi ad hoc per comandanti di compagnia, squadrone, batteria svolti in favore di Niger e Qatar sono stati sviluppati secondo specifiche esigenze. Nello stesso periodo, presso il Centro Studi Post Conflict Operation di Torino, sono stati ammessi 91 ufficiali da 21 paesi per lo Stabilization and Reconstruction Management Senior Course e un complessivo di 102 ufficiali da 22 paesi per lo Stabilization and Reconstruction Orientation Course. Esercitarsi nella pianificazione anche attraverso il ricorso a sistemi di simulazione digitali e non digitali, quali il VBS 3 Virtual Battle Space 3, il Sand Table, un campo di battaglia fedelmente riprodotto con la sabbia, e la MRE sono alcuni degli elementi portanti e largamente utilizzati. I paesi esteri, per il tramite dei propri addetti militari accreditati, prospettano le proprie esigenze formative allo Stato Maggiore della Difesa che, in stretta coordinazione con il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le valuta sotto il profilo politico-militare. Il personale straniero che partecipa come frequentatore deve essere accuratamente selezionato perché i lunghi periodi di formazione richiedono ai partecipanti grande impegno e forza di volontà. Nella quotidianità dei rapporti, l'attuazione del piano delle ammissioni presenta anche delicati aspetti culturali, religiosi, alimentari, a volte di ambientamento da curare con particolare attenzione. La necessità di garantire la didattica ha rappresentato una sfida, soprattutto in considerazione dei piani di studio universitari e delle difficoltà linguistiche per gli allievi stranieri. Per questo il tutoraggio attivo rappresenta una priorità che si pone quale fulcro dei rapporti internazionali tra gli Stati. L'emergenza Covid-19 ha imposto agli istituti importanti sforzi organizzativi, soprattutto in termini di potenziamento della piattaforma digitale Moodle e della copertura Wi-Fi per la didattica a distanza, permettendo agli istituti di proseguire l'attività formativa. Il nuovo anno accademico inizia sotto i migliori auspici con istituzione e personale docente consapevole di preparare alle armi uomini e donne anche di terre lontane che avranno al termine dell'iter formativo vissuto una straordinaria opportunità professionale e di vita.